scendendo in tiro e conoscendo il tiro. E ben fonde quello che non vuol fagiar sentier e conosce il vento il tiro. Il navicella ben ti adorna, torna, finché il tempo torna al lido, torna, finché il tempo torna al lido. Navicella ben ti adorna, torna, finché il tempo torna al lido. Navicella, torna, finché il tempo torna al lido. Torna, finché il tempo torna al lido. E conosce il vento in tiro. E ben fonde quello che non vuol cangiar sentier. E conosce il vento in tiro. Il vento.